Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Il capitano Gilles mi stava osservando con un'aria compiaciuta che in chiunque altro sarebbe risultata odiosa. Di colpo, come quando voltata la pagina in un libro si scopre una parola che spiega tutti i fatti precedenti, scorsi nella faccenda un altro profilo oltre a quello morale. Eppure non mi mossi ancora. Il capitano Gilles perse un poco la pazienza. Con una stizzosa boccata di fumo della sua pipa, girò le spalle alla mia indecisione. Ma da parte mia non si trattava di indecisione. Mi si era, se così posso dire, inceppata la mente. Però appena mi convinsi che in quel mondo stantio e ingeneroso della mia insoddisfazione esisteva niente meno che un comando da acciuffare al volo, ritrovai le facoltà locomotrici. Dalla casa del marinaio alla capitaneria è una bella tirata, ma con quella magica parola comando in testa mi ritrovai di colpo sulla banchina, quasi fossi stato trasportato lì in un batter d'occhio, davanti a un portale di pietra bianca lavorata al sommo di una bianca scala fatta di bassi gradini. Tutto ciò mi parve scivolare velocemente verso di me. L'intera grande rada alla mia destra fu appena appena un tremolio di azzurro, ed il vestibolo oscuro e fresco mi inghiottì, dandomi, in quel preciso momento, la percezione del caldo e del solleone di cui prima non mi ero reso conto. L'ampio scalone interno, chissà come, si insinuò da solo sotto i miei piedi. Un comando è una potente magia. I primi esseri umani che scorsi distintamente, dopo essermi accomiatato con la schiena sdegnata del capitano Gilles, furono i marinai della motolancia portuale, lì in attesa sul vasto pianerottolo su cui dava l'archivolto chiuso da una tenda dell'ufficio di iscrizione marittima. Qui la mia spinta di galleggiamento mi abbandonò. L'atmosfera ufficiale riuscirebbe a soffocare qualsiasi umano slancio, a spegnere del pari speranza e timore sotto il potere supremo della carta e dell'inchiostro. Passai pesantemente sotto la tenda che il malese padrone della lancia portuale sollevò dinanzi a me. Nella stanza c'erano soltanto gli impiegati, intenti a scrivere in due operose file. Ma il commissario capo saltò giù dal suo pulpito e si affrettò a venirmi incontro sulle spesse stuoie dell'ampio passaggio centrale. Malgrado il nome scozzese, aveva una carnagione vitinta intensamente olivastra, una barba corta di un nero lucido e negli occhi, neri anch'essi, un'espressione languida. Chiese in confidenza: «Volete entrare da lui?» Poiché al tocco dell'aura ufficiale ogni levità di spirito e di corpo se n'era andata da me, guardai lo scriba senza animazione e a mia volta chiesi stancamente: «Che cosa ne pensate? Vale la pena?» «Bontà divina! Oggi lui ha chiesto di voi due volte!» Questo enfatico «lui» era la suprema autorità, il sovrintendente di marina, il comandante di porto, altissimo personaggio agli occhi di ogni singolo imbrattacarte di quella stanza. Ma ciò era ancora niente a paragone dell'alto concetto che egli aveva di se stesso. Il capitano Ellis si considerava una specie di emanazione divina pagana, il vice Nettuno dei mari circunvicini. Se non comandava effettivamente sui flutti, aveva la pretesa di comandare sul fato dei mortali che venivano sparsi sulle acque. Tale augusta illusione lo rendeva invadente e autoritario. E poiché era di indole collerica, c'era chi ne aveva un'effettiva paura. Era temibile non in virtù della sua carica, ma a causa delle sue gratuite pretese. Non avevo mai avuto a che fare con lui. Dissi: «Oh, ha chiesto due volte di me. Allora sarà bene che io entri». «Ma dovete! Dovete!» Il commissario mi fece strada, comportamento affettato, girando intorno all'intero sistema di scrivanie fino ad un uscio alto e imponente che aprì con un movimento deferente del braccio. Oltrepassò immediatamente la soglia, ma senza staccarsi dalla maniglia, e, dopo essere stato un po' a guardare con reverenza nell'interno, mi invitò ad entrare con un silenzioso scatto della testa. Poi scivolò subito fuori e mi richiuse la porta alle spalle con estrema delicatezza. Tre ampie finestre davano sul porto. Le colmava interamente l'azzurro cupo del mare scintillante e l'azzurro più pallido, luminoso del cielo. Il mio occhio colse nelle profondità e distanze di quei toni azzurri la macchiolina bianca di una grossa nave appena arrivata ed in procinto di dar fondo all'ancora nella rada esterna. Una nave arrivata dall'Inghilterra, dopo forse 90 giorni di mare. C'è qualcosa di commovente in una nave che arriva dal mare e ripiega le ali bianche per un po' di riposo. E subito dopo vidi il ciuffo di argentei capelli in cima alla faccia liscia e rossa del capitano Ellis. Una faccia da apoplettico, se non avesse avuto un aspetto così fresco. Il nostro vice Nettuno non aveva il mento barbuto, né si scorgeva un tridente appoggiato in un angolo a guisa d'ombrello, ma la sua mano impugnava una penna, la penna ufficiale, di gran lunga più possente della spada nel fare e disfare le fortune dei semplici uomini che faticano. Con la testa girata di fianco, mi guardava avanzare. Come fui ben apportata, mi accolse con un «Dove vi siete cacciato tutto questo tempo?» da scuotervi i nervi. Siccome non era cosa che lo riguardasse, non mi diedi minimamente per inteso. Dissi solo di aver saputo che occorreva un capitano per una nave a vela e poiché venivo dalla navigazione a vela, avevo pensato di presentare domanda. Mi interruppe. «Come? Ma piantatela! Siete voi l'uomo per quel posto! Ce ne fossero pure altri 20 a chiederlo!» «Ah, ma non c'è pericolo! Hanno tutti paura di un posto simile! Ecco com'è la questione!» Era molto irritato. Dissi senza malizia: «Ma davvero, comandante? E perché mai?» «Perché?» esplose. «Paura delle vele! Paura di un equipaggio di bianchi! Troppo disturbo! Troppo lavoro! Troppo tempo via di qui! Bella vita e sedia a sdraio ci vogliono per loro! Ed io qui seduto col telegramma del console generale davanti, mentre l'unico marinaio adatto a quel posto non si trova da nessuna parte. Cominciavo a pensare che vi fosse venuta la tremarella anche a voi». «Ma non ci ho messo molto a raggiungere la capitaneria», obiettai con calma. «Eppure avete buona reputazione qui», ringhiò ferocemente senza guardarmi. «Ma sono felice di sentirvelo dire, signore», feci io. «Sì, ma non ci siete quando vi si cerca. Sapete che non c'eravate. Quel vostro cambusiere non oserebbe trascurare un messaggio della capitaneria. Dove diavolo vi siete nascosto per quasi tutto il giorno?» Mi limitai a sorridergli cortesemente ed egli parve riprendersi e mi invitò a sedermi. Spiegò che il capitano di una nave inglese era morto a Bangkok e il console generale gli aveva telegraficamente richiesto di mandare un marinaio competente cui affidare il comando. A quanto pare aveva pensato a me sin dall'inizio, benché, per rispetto delle dovute forme, la comunicazione indirizzata alla casa del marinaio fosse generica. Era già stato preparato un contratto. Me lo diede da leggere, e quando glielo resi, dicendo che ne accettavo i termini, il vice Nettuno lo firmò, lo timbrò con la sua stessa augusta mano, lo piegò in quattro, era un foglio azzurro formato protocollo, e me lo porse, dono di straordinaria potenza che, al mettermelo in tasca, mi girò un po' la testa. Questa è la vostra nomina al comando, disse con una certa gravità. Una nomina ufficiale che vincola gli armatori alle condizioni che avete accettate. Ora, quando sarete pronto a partire? Dissi che ero pronto quel giorno stesso, se necessario. Mi prese in parola molto prontamente. Il piroscafo Melita era in partenza quella sera per Bangkok alle 7 circa. Avrebbe fatto avere al capitano una richiesta ufficiale di darmi un passaggio e di aspettarmi fino alle 10. Poi si alzò dalla sua poltrona e mi misi in piedi anch'io. Mi girava la testa indiscutibilmente e mi sentivo le membra pesanti come se fossero ingrossate da quando mi ero seduto su quella sedia. Presi commiato con un inchino. Si poté avvertire un sottile mutamento nelle maniere del capitano Ellis, come se avesse messo da parte il tridente di Vice Nettuno. In realtà aveva solamente deposto la penna ufficiale nell'alzarsi. Mi strinse la mano. Ebbene, eccovi ora nominato ufficialmente sotto la mia responsabilità. Intanto mi accompagnava alla porta. Come pareva lunga quella distanza. Mi muovevo come avessi le catene ai piedi, ma infine la raggiungemmo. L'aprii con la sensazione di trovarmi in un sogno. Ed allora, all'ultimo momento, prevalse il cameratismo professionale, più forte di ogni diversità di età e posizione. Prevalse nella voce del capitano Ellis. Addio e buona fortuna, disse, con tanta cordialità che riuscii solo a rivolgergli uno sguardo grato. Poi girai su me stesso ed uscii. Né dovevo mai più rivederlo in vita mia. Non avevo fatto tre passi nell'altro ufficio che dietro la mia schiena udì una voce purbera, sonante, autoritaria, la voce del nostro Vice Nettuno. Era rivolta al commissario capo che, a quanto sembra, dopo avermi introdotto, era rimasto da allora a gironzolare nei paraggi. «Signor R, fate tenere sotto pressione la lancia del porto per accompagnare il capitano a bordo del Melita, stasera, alle 9:30». Mi meravigliò l'accento stupefatto con cui R rispose «Sì, signore». Si affrettò a farmi strada fino al pianerottolo. Sentivo ancora così poco il peso della mia nuova dignità da non rendermi conto che l'oggetto di quell'ultima cortesia ero io, il capitano. Pareva che all'improvviso mi fosse spuntato sulle spalle un paio d'ali. Sfioravo appena il lucido pavimento. Ma R era rimasto colpito. «Perbacco!» esclamò sul pianerottolo, mentre l'equipaggio malese della motolancia restava di sasso a guardare l'uomo per cui sarebbe stato trattenuto in servizio così tardi, lontano dal gioco, dalle donne o magari dalle pure gioie domestiche. Perbacco, la sua lancia personale! Ma che cosa gli avete fatto? Mi fissava con curiosità piena di rispetto. Io ero proprio sconcertato. Era per me? Non lo immaginavo minimamente, riuscii a balbettare. Egli annuì ripetutamente. «Sì, è l'ultima persona ad averla prima di voi, è stato un duca, proprio così!» Si aspettava probabilmente che svenissi seduta stante, ma avevo troppa fretta per abbandonarmi a esibizioni emotive. Ero già in un tale turbine di sentimenti che quella sbalorditiva notizia non cambiava proprio nulla. Cadde nella caldaia in ebollizione del mio cervello e me la portai via, dopo un breve ma caloroso scambio di saluti con R. Il favore dei grandi crea un aureolo intorno al fortunato oggetto della loro scelta. Quell'ottima persona si informò se poteva essermi utile in qualche modo. Prima mi conosceva solo di vista e ora sapeva bene che non mi avrebbe mai più veduto. Ero, al pari di qualunque altro marinaio del porto, un semplice pretesto di scritturazioni ufficiali e di compilazione di moduli, effettuati con tutta l'artificiale superiorità degli uomini di penna e calamaio sugli uomini che si arrabattano con la realtà fuori dalle sacre mura delle sedi burocratiche. Che fantasmi dovevamo sembrargli? Meri simboli da far giostrare in libri e pesanti registri, privi di cervello e muscoli e problemi. qualcosa di poco utile e decisamente inferiore. Ed egli, già terminato l'orario di ufficio, mi chiedeva se poteva essermi utile in qualche modo. Avrei dovuto, a rigor di termini, avrei dovuto sentirmi commosso fino alle lacrime, ma non mi passò per la mente. Era soltanto un ulteriore prodigio di quella giornata di prodigi. Lo lasciai come se fosse lui un mero simbolo. Scesi le scale galleggiando. Uscii galleggiando dall'ufficiale e imponente portale e continuai a galleggiare via da lì. Uso questa parola, piuttosto che volare, perché ho la netta impressione che, pur sotto la spinta del mio entusiasmo giovanile, i miei movimenti fossero abbastanza controllati. A quella porzione di umanità variegata di bianco, bruno e giallo che se ne andava in giro per le proprie faccende, io offrivo l'apparenza di un uomo che camminava in modo piuttosto posato. Ed ero così assorto che nulla avrebbe eguagliato il mio profondo distacco dalle forme e dai colori di questo mondo. Esso era, per così dire, assoluto. Eppure, all'improvviso, riconobbi Hamilton. Lo riconobbi senza sforzo, senza una scossa, senza un sobbalzo. Eccolo lì, che veniva passo passo verso la capitaneria con la sua rigida, arrogante sostenutezza. La faccia rossa lo faceva notare a distanza. Fiammeggiava dall'altra parte, sul lato in ombra della strada. Anche lui mi aveva scorto. Qualcosa, forse un'inconsapevole esuberanza di umore, mi indusse a salutarlo con un cenno studiato della mano. Questa mancanza di buon gusto avvenne prima che mi rendessi conto di esserne capace. La botta della mia sfacciataggine lo fermò di colpo, come una pistolettata. Sono sicuro che barcollò, anche se non riuscii a vedere se cadesse davvero. In un attimo ero già passato oltre e non voltai il capo. Mi ero dimenticato che esistesse. I 10 minuti successivi, per quanto ne seppi io, potevano anche essere stati 10 secondi o 10 secoli. Intorno a me le persone potevano cadere a terra morte, rovinare le case, sparare i cannoni. Io non me ne sarei accorto. Stavo pensando: per Dio, ce l'ho. L'ho, cioè il comando. Era giunto in un modo assolutamente non previsto nei miei modesti castelli in aria. Sentii che le mie fantasticherie avevano fino ad allora seguito strade convenzionali e che le mie speranze erano sempre state di qualità grossolana. Ad un comando avevo pensato come al risultato di una lenta trafila di promozioni, alle dipendenze di qualche seria compagnia, ricompensa di fedele servizio. Già, ma il fedele servizio va da sé. È naturale che lo si dia, per amor proprio, per amore della nave, per amore del genere di vita che si è scelto, non per amor di ricompensa. C'è un che disgradevole nel concetto di ricompensa. Ecco invece che il comando lo avevo letteralmente in tasca, grazie a circostanze ineccepibili, certo, ma del tutto inattese. Di là da ogni fantasticheria, al di fuori di ogni ragionevole speranza e persino a dispetto di una specie d'oscuro intrigo per non farmelo avere. Era un intrigo piuttosto fiacco, a dire il vero, ma rinforzava il senso di portento, come se a quella nave, che non conoscevo, mi avesse specificatamente destinato una potenza più alta che non i prosaici interventi del mondo commerciale. Una strana sensazione di esultanza cominciava a serpeggiare dentro di me. Se avessi faticato 10 anni o più per avere quel comando, non avrei provato nulla di simile. Ne fui un po' impaurito. Stiamo calmi, mi dissi. Stop.